24, i gialli della storia. Non sono mai stato obbligato a diventare fascista, a continuare ad essere fascista nei tempi buoni e felici in cui essere fascista poteva rappresentare una comodità o un vantaggio. Sarebbe veramente vergognoso che una volta che il fascismo non rappresenta più un vantaggio ma uno svantaggio, qualche volta un pericolo, un rischio, comunque sarebbe vergognoso da parte mia non insistere. Con queste parole, tratte da un'intervista dell'aprile 87, Giorgio Almirante racconta la sua fede politica, un fascista che rivendica con orgoglio la propria identità, le sue radici, le sue idee. Per 40 anni Almirante è stato il riferimento politico di quell'Italia che l'8 settembre del 43 ha scelto la Repubblica di Salò e che non ha mai festeggiato la festa della liberazione. Un'Italia minoritaria ma consistente che è rimasta fascista, fascista nonostante tutto, fascista nonostante il verdetto della storia. E del Partito Neofascista Italiano, il Movimento Sociale Almirante è stato segretario per 2 volte, dal 48 al 50 e poi quasi per 20 anni, dal 69 all'87. Politico di razza, dalla personalità carismatica, Almirante resta una delle figure più controverse della Prima Repubblica. Di lui restano memorabili i suoi interventi televisivi, la sua dialettica, la vis polemica, la raffinata e intelligente oratoria. E anche grazie a questa qualità che Almirante riempie sempre le piazze dei suoi comizi e raccoglie sempre più consensi. Il 13 giugno del 71, nelle elezioni regionali in Sicilia, l'MSI passa dal 3-4% al 16% in alcune città, arriva al 20%. Per i Missini è come un raggio di sole in un cielo nuvoloso. Elettrici ed elettori, voi sapete che alla base di questo successo c'è la vostra protesta. Ma questo inatteso successo fa vedere il Movimento Sociale come un serio problema da contrastare e combattere. Il 27 giugno del 71, sotto il titolo Un servo dei nazisti, il quotidiano comunista L'Unità, diretto da Carlo Ricchini, ricorda agli italiani chi è Giorgio Almirante, pubblicando il testo di un comunicato in cui si invitavano i componenti dei gruppi partigiani a consegnare le armi e a sottoporsi all'identificazione. Oltre la data del 25 maggio, tutti coloro che non si saranno presentati saranno considerati fuori legge e passati per le armi mediante fucilazione alla schiena. In base a quel bando, a quel manifesto, a quella legge, vennero fucilate centinaia di persone. Almirante, insomma, è un uomo di Salò, un uomo che la storia ha relegato tra gli sconfitti ed è a quei vinti che dopo il 25 aprile del 45 il Movimento Sociale cerca di ridare una voce. Nell'Italia democratica uscita dalla guerra non tutti i fascisti si rassegnano alla sconfitta. In un contesto quasi sempre ostile nascono decine di formazioni clandestine scollegate e sparse per la penisola. A dare loro una voce unitaria è Pino Romualdi, vice segretario del Partito Nazionale Fascista a Salò. Nel 47 Romualdi sarà processato in contumacia e condannato a morte per una rappresaglia antipartigiana. Da latitante Romualdi tratta personalmente con i monarchici repubblicani, si dice perfino con il ministro Guardia Sicilia Togliatti, per ottenere un'amnistia, e l'amnistia arriva il 22 giugno del 46. L'amnistia apre le porte del carcere a 20.000 fascisti. A questo punto si può cominciare a pensare a qualcosa di serio e organizzato. Il 26 dicembre del 46, nello studio dell'avvocato Arturo Michelini a Roma, nasce il Movimento Sociale Italiano e Almirante viene nominato segretario del partito il 15 giugno del 47. Ma in realtà il vero capo del Movimento Sociale resta Pino Romualdi, che ha una visione originale del nuovo partito. Un partito atlantico che vada d'accordo con la Chiesa, un grosso partito di destra, non necessariamente neofascista, sicuramente non nostalgico, ma un partito di destra moderato. Quando nascemmo, noi nascemmo per restituire voce ai vinti. Noi eravamo i vinti in una guerra civile. Almirante asseconda la linea di Romualdi, almeno fino al marzo del 48. quando Romualdi viene improvvisamente arrestato. Pino Romualdi resterà in prigione 3 anni e mezzo. Tornato libero, guiderà fino alla morte una corrente del partito sostanzialmente minoritaria. Al contrario, per il Movimento Sociale Italiano, Almirante sarà un vero e proprio missionario. I suoi viaggi per l'Italia intera, le notti passate a dormire nei treni per raggiungere i più sperduti angoli della penisola, ne fanno ben presto un vero e proprio mito per il popolo missino. Giorgio Almirante nasce il 27 giugno del 14. Il padre è un attore e collabora con la compagnia di Eleonora D'Uso e poi con quella di Ruggero Ruggeri e quindi si sposta continuamente da una città all'altra. Almirante così studia a Torino mentre finisce l'università a Roma. Ma quanto deve del suo successo di leader a questa sua esperienza, a questo suo rapporto in qualche modo col teatro e quindi alla sua capacità oratoria che riconosce? Io credo molto, a prescindere dalla capacità oratoria, proprio. Vabbè, questa è riconosciuta. Sono uomo di palcoscenico, non sono uomo di anticamera. L'8 settembre del 43 Giorgio Almirante sceglie Salò e segna per sempre il suo destino. A Salò Almirante diventa capo ufficio stampa di Ferdinando Mezzasoma, ministro della propaganda della Repubblica Sociale, uno dei più fanatici seguaci del fascismo repubblichino che morirà fucilato con Mussolini. Ma lei di Mussolini che ricordo ha? Ho un tenero ricordo. Cioè? Una telefonata. Era il giorno in cui, me lo lascia dire, certo, in poche parole, era il giorno in cui gli alleati stavano entrando in Roma, se non erro 4 giugno del 1943. Io come capo di gabinetto del Ministero della Cultura Popolare avevo le notizie attraverso le nostre stazioni di intercettazioni, allora non c'era la televisione, intercettazioni radio, e quindi potevo seguire le notizie via via che esse si svolgevano, e Mussolini telefonava, non a me personalmente, al Ministero per sapere le notizie. Quel giorno telefonò a me personalmente. E cosa si metta nei miei panni, io giovanissimo, per me Mussolini era tutto, io tremavo quando mi dicevano il Duce al telefono, il Duce al telefono. La sua telefonata fu dura, tagliente, la prima. Almirante, che notizie mi date? E gli diedi le notizie. Poi una seconda telefonata dopo un'ora. Almirante, che notizie mi date? E io gli diedi le notizie. Una terza telefonata. Almirante, quali sono le notizie? E poi, posso chiamarla, posso chiamarvi ancora? Quel posso chiamarvi mi aprì una voragine. Dopo oltre 40 anni, ricordo dell'uomo che ha privato gli italiani della libertà e li ha precipitati nella voragine della guerra al fianco dei nazisti, è ancora emozionato e commosso, sentimenti diversissimi da quelli del segretario del Movimento Sociale, il moderato Arturo Michelini, che guida il partito dal 54 per 15 anni. Ma a scompigliare la cauta politica di Michelini arriva la contestazione studentesca e l'opposizione interna. Giorgio Almirante ridiventa protagonista. E il 16 marzo del 68 a Roma la facoltà di lettere è occupata dal movimento studentesco. Da una prima fase di confusione tra destra e sinistra all'interno del movimento studentesco, dal partito arriva un ordine preciso, quello di rompere il fronte fino a quel momento compatto del movimento studentesco. Il 16 marzo del 68 all'Università di Roma si presentano, guidati dallo stesso Almirante, circa 200 attivisti missini. La spedizione all'Università di Roma del marzo del 68 è il duro biglietto da visita con cui Almirante, dopo la morte di Michelini, che guidava il partito dal 54, si presenta poco più di un anno dopo come nuovo segretario dell'MSI. Il suo partito sarebbe ben lieto di una soluzione che ci salvasse, allo stesso modo in cui i colonnelli greci hanno salvato la Grecia. Guardi, ho già detto, grazie. Amari estremi e estremi rimedi. Noi siamo virilmente pronti alla realtà, senza ipocrisie. Qualora soluzioni anche di forza ci salvassero dal comunismo, ben vengano, grazie, le soluzioni di forza. Con 69 il paese comincia a spaccarsi in due parti. Contestazione studentesca e sindacale, anticontestazione. C'è una destra e una sinistra, non c'è più spazio per il centro. Da questa intuizione Almirante elabora una strategia. Da un lato ricompone il mondo neofascista, tant'è vero che in poco tempo riuscirà già nel 69 a fare ritornare Ordine Nuovo di Rauti e dall'altro cercare di spaccare il centro, cioè la Democrazia Cristiana, e dunque obbligarla a prendere posizione o con i comunisti e la sinistra o a favore della destra, e quindi ordine o disordine. All'improvviso i tratti eversivi dell'almirante movimentista sembrano scomparire. In vista delle elezioni politiche del 72, ad appena 2 anni dalla nomina a segretario politico dell'MSI, il linguaggio di Almirante si fa moderato, proprio come la sua proposta politica. Decide di cambiare nome al partito, adesso si chiama Destra Nazionale. È il progetto di una destra moderata che si giova anche della confluenza nel partito di forze nuove come i monarchici guidati da Alfredo Covelli, ma non solo. E infatti per dare maggior forza al nuovo corso moderato, Almirante nomina presidente del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale l'ammiraglio Gino Birindelli, ex comandante alleato del Sud Europa della NATO. È un grande colpo d'immagine. Si disse che era il momento di cambiare il linguaggio, il momento di lasciare gli orpelli. Era l'idea di smettere i segni del neofascismo per poter fare politica nel tempo in cui eravamo. Io sono nel post-fascismo. Come tale io sono stato uno dei fondatori del Movimento Sociale Italiano. L'ho portato innanzi insieme ad altri, adesso lo dirigo dopo più di 20 anni. E lo dirigo in termini tali, con linguaggio tale, con prospettive tali, che altri mi hanno dato modo di realizzare finalmente un vecchio sogno, una destra nazionale. Per molti quel passaggio verso una destra nazionale più moderata e filo occidentale è solo propaganda e la furbizia di un politico consumato. In realtà però c'è molto di più. A raccontare il retroscena di quella svolta è uno degli uomini più importanti dell'MSI di allora, Giulio Caradonna, secondo il quale dietro questa decisione si nascondevano degli accordi con gli Stati Uniti e in particolare con Nixon, che avrebbe finanziato con $600.000 lo sviluppo di un MSI moderato e democratico per contrastare l'avanzata ideologica delle sinistre. Complice dell'accordo sarebbe stato Pierfrancesco Talenti. Capolavoro di Almirante avviene nel 1970, quando Nixon ordina l'appoggio al Movimento Sociale Italiano. Questa storia permise al Movimento Sociale Italiano di creare la cosiddetta destra nazionale. Talenti è un ricco imprenditore, figlio di emigranti abruzzesi degli Stati Uniti che studia in Italia durante il fascismo. Tornato in America, un repubblicano convinto e finanzia le campagne elettorali di Nixon, e quando nel 69 Nixon arriva alla Casa Bianca, Talenti diventa in qualche modo l'uomo di fiducia del presidente americano in Europa. Sempre secondo Caradonna, l'operazione prevedeva un evidente cambio di rotta rispetto al passato, al punto che Almirante in una tribuna elettorale del 12 aprile del 72 vi trovate di fronte ad un partito politico il quale ripudia la dittatura, ripudia il totalitarismo, ripudia il razzismo, ripudia l'antisemitismo, ripudia il metodo e l'uso della violenza. Un problema che si trovano ad affrontare gli Stati Uniti è quello di come fare a far arrivare quei soldi all'MSI senza che l'Unione Sovietica ne sia al corrente, perché la cosa avrebbe scatenato una problematica diplomatica di dimensioni cosmiche. Per risolvere il problema fu incaricato il generale Miceli, allora capo dei servizi segreti, ma con l'obbligo di fedeltà alla NATO, e il generale realizza la consegna. Anzi, a garanzia della nuova linea del partito c'è la presenza dell'ammiraglio Birindelli. Ignazio La Russa, ex dirigente MSI, smentisce Caradonna. Io non credo che ci siano mai stati finanziamenti americani. Agli americani che noi diventassimo un partito di destra democratico non gli poteva fregare di meno, come si direbbe a Roma. Ma Giulio Andreotti, in un'intervista con Marco Marra, pur scegliendo di non entrare nei particolari, considerando gli avvenimenti ormai troppo lontani nel tempo, dichiara che fu molto indispettito da quello che considerava un doppio gioco. Questo non è che io ignoro questo, però quanto questo sia in tutto esatto, che cosa sia stato veramente il retroscena di certi incontri. Io lo capii poco allora e ancora oggi forse è ancora più difficile capirlo adesso a distanza di tanto tempo. Ma lei ci può dire come ha saputo di questi contatti tra Miceli e il Movimento Sociale Italiano per finanziarlo da parte degli americani? Siccome è vero, è passato molto tempo, si può dire tutto, ma insomma forse è meglio che alcuni che davano delle informazioni siano coperti dal segreto. Ma lei se la prese con gli americani? Beh, certamente, insomma, non è che vi faccia piacere vedere questo, che sostanzialmente era un doppio gioco. Poi Miceli sarebbe diventato deputato missino. Beh, come no. Ma quella normalizzazione che voleva nascere sulle ceneri della violenza si scontra con un periodo tra i più difficili della Repubblica. La violenza politica nelle strade, nelle piazze, travolge sempre più giovani di destra e di sinistra. E da una parte e dall'altra si comincia a contare i primi morti. A nulla valgono le ripetute richieste che Almirante fa tese a abbandonare la violenza. Il 12 aprile del 73 a Milano la questura vieta una manifestazione del movimento sociale. Negli scontri che seguono un agente di polizia, Antonio Marino, 23 anni, viene dilaniato da una bomba a mano RSCM. Almirante va su tutte le furie, al punto di mettere una taglia nei confronti del responsabile. Grazie a una delazione si arriva a individuare i responsabili. Vittorio Loi e Maurizio Murelli, due giovani militanti missili. Almirante a quel punto vara una politica diretta all'ordine, cercando di far rientrare nei ranghi anche quelle componenti giovanili orientate verso la violenza, ma così facendo scava un fossato tra la destra parlamentare e quella extraparlamentare che ha avuto modo di crescere all'interno dell'ondata di violenza che nel paese è presente da anni. Brescia, 28 maggio 74, una bomba esplode in Piazza della Loggia nel corso di una manifestazione sindacale, provoca 8 morti e oltre 90 feriti. Stampa, opinione pubblica non hanno dubbi, è l'ennesima strage fascista. Meno di un mese dopo, il 26 giugno, l'ammiraglio Birindelli si dimette da presidente del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, convinto che il partito non sia più in grado di demarcarsi dall'area turbolenta dell'estremismo di destra. Per Almirante è un altro duro colpo. Nelle piazze in Parlamento si raccolgono le firme per mettere l'MSI fuori legge. Almirante è sempre più sotto attacco. Quindi la sera in questo articolo di fondo ha detto: l'unica vera minaccia in grado di insidiare la Repubblica viene da destra. Ora vorrei sapere perché lei minaccia la Repubblica. Io sarei un po' il mandante morale del terrorismo, della violenza, della strategia, no, della non tensione. Lei personalmente. Il mio partito. Ci sono dei violenti anche fra noi, fra gli iscritti al Movimento Sociale Italiano. C'è, lo devo ammettere, c'è da parte di tanta parte dei giovani che sono vicini con noi o che sono con noi, c'è uno stato di insoddisfazione, di ribellione contro i miei ordini e le mie direttive. Voglio solo augurarmi che queste direttive pacifiste siano quelle che lei dà ai giovani del suo partito, che peraltro sembrano non recepire. Queste direttive sono la mia vita stessa, sono la mia coscienza. Vorrei sottolineare che in effetti è difficile dire che la violenza viene dal MIS, in quanto siete in effetti velocissimi a espellere dal partito, ma sempre dopo. No, prima li espelliamo, non dopo, prima li espelliamo. Comunque ancora non avete espulso né il tenente Saccucci né l'onorevole Rauti. Non vi è motivo per espellere. Non vi è alcun motivo per espellere. Almirante non espellerà mai Pino Rauti, arrestato nel 72 per concorso in strage per l'attentato di Piazza Fontana e poi completamente scagionato. Espelle invece Sandro Saccucci, a Sezze Romano infatti nel maggio del 76 il comizio del deputato missino sfocia nell'omicidio di un giovane militante comunista. Ma c'è un'altra decisione di Almirante che alimenta polemiche e diffidenze verso l'MSI. Nel 76 candida alle elezioni politiche nella lista dell'MSI il generale Vito Miceli, già capo dei servizi segreti militari, e dal 74 sotto inchiesta sia per il golpe borghese che per l'organizzazione eversiva Rosa dei Venti. È una decisione sorprendente. Vito Miceli uscirà assolto da tutte le inchieste, ma alle elezioni del 20 giugno del 76 il movimento sociale Destra Nazionale ha un tracollo spaventoso. È il peggior risultato del partito dal 48. Dopo il disastro elettorale, il partito si spacca letteralmente in due. È la più grande scissione politica della storia repubblicana. Democrazia Nazionale, la componente moderata che fa capo Ernesto De Marzio, abbandona Almirante dichiarandolo un estremista, un traditore della politica di Destra Nazionale. È il tramonto definitivo del progetto di Destra Nazionale, il fallimento di decenni di strategia politica. È un lungo e vasto deserto quello che Almirante ha di fronte, un deserto che si estende fin dentro gli anni Ottanta, quando con il nuovo decennio la passione, la rabbia, la violenza degli anni Settanta a poco si spengono. Anche per la politica italiana è una nuova stagione. Il 22 giugno dell'84 anche Giorgio Almirante rende omaggio alla salma del suo più acceso avversario di un tempo, il segretario comunista Enrico Berlinguer, morto dopo un comizio a Padova. Era finita un'epoca, anche se Almirante non vuole allontanare da sé quella patina di diversità che lo ha sempre contraddistinto. Quando il 21 luglio dell'83 Bettino Craxi riceve da Sandro Pertini l'incarico di formare il nuovo governo, per la prima volta nella storia della Repubblica un Presidente del Consiglio incaricato include nelle sue consultazioni il Movimento Sociale Italiano. Se anche questo è un indizio del nuovo clima politico degli anni Ottanta, per Almirante più in concreto questa è la possibile fine di decenni di isolamento politico. Ma le sue parole d'ordine sono ormai lotta alla partitocrazia, riforme istituzionali e alternativa radicale al sistema. Quello di Almirante, insomma, è un isolamento rivendicato con orgoglio fino alla fine, richiamando perfino nel lessico quelle radici fasciste che non ha mai voluto rinnegare. Nel 1986 Almirante viene rinviato a giudizio per favoreggiamento nei confronti di Carlo Cicuttini, neofascista friulano coinvolto nella strage di Peteano. Ma Almirante si avvale della sua immunità parlamentare e rifiuta di farsi interrogare. Alla fine viene amnistiato. È l'ultima eredità di una stagione terribile del nostro paese, piena più di ombre che di luci. Saprò uscire dalla scena e al congresso io mi presenterò correttamente come il segretario di missionario. Sì, ma pensa di lasciare? No, mi dica una cosa vera. Io penso di lasciare. Pensa? Penso di lasciare. Allora in mente un erede non ce l'ha? Non ho in mente un erede perché non sono monarchico né seguo l'istituto monarchico. E uno che possa aspirare? Tutti. So di aver avuto troppo da tutti quanti voi, so di aver avuto troppo da tutto il partito, non dirò io ho quel che ho donato, dico io ho quello che mi è stato donato. Il Movimento Sociale Italiano è stato la gioia della mia vita, continuerà ad essere la gioia della mia vita. Lo dico con rispetto, con affetto, con tenerezza, cari camerati, giovani, anziani, soprattutto giovani. Ve lo dico perché siete la mia vita, siete il mio futuro, siete il mio passato, siete il giorno della mia vita. Grazie. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.